Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17:06 minuti. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. La giornata sui mercati è negativa, ma del resto sono andati bene e parecchio negli ultimi giorni. Il FTSE MIB cede l'1,08%, il FTSE All Share lo 0,92%. Francoforte è positiva dello 0,14%, Parigi in calo di mezzo punto percentuale, negativa anche se lievemente anche l'America. Il Dow Jones cede lo 0,12%, il Nasdaq guadagna in realtà lo 0,17%, lo Standard & Poor's 500 in calo dello 0,08%, quindi variazioni scarse almeno negli Stati Uniti. Ovviamente di mercati ci occuperemo, anche se il tema che resta di sottofondo, se vogliamo, è sempre lo stesso, ossia l'attesa per giovedì, riunione del board della Banca Centrale Europea, ossia del direttivo della Banca Centrale Europea, nel quale finalmente dovrebbero prendere corpo le parole del presidente Mario Draghi, che ha detto faremo tutto quello che è possibile nell'ambito del nostro mandato per salvare l'euro, e vi assicuro che sarà abbastanza. Nel frattempo proseguono i giri di incontri a livello europeo. Il presidente del Consiglio Mario Monti, lo avete sentito poco fa nel GR, poi più avanti sentiremo la voce, anche l'inviato del Sole 24 Ore da là, ha incontrato il presidente francese Hollande e poi è andato in Finlandia, come sapete uno dei paesi più refrattari ad accettare le nuove norme per salvare i paesi in difficoltà, le nuove norme varate dal Consiglio europeo. Parleremo di questo. In apertura toccheremo il tema della disoccupazione. Ci sono i nuovi dati arrivati dall'Istat oggi e sono ancora una volta, come forse prevedibile, dati negativi, ancora pesanti per i giovani e ancora pesanti per quanto riguarda coloro che hanno rinunciato addirittura a cercare un lavoro. Ci occuperemo anche, tra le altre cose, naturalmente, dei conti della Fiat che sono stati diffusi poco fa. Tutto questo tra poco. È il 349-238-6666 il numero per i vostri SMS. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve. E come sempre iniziamo dalle materie prime con l'oro in rialzo a $1,625,4 l'oncia, mentre invece fa segnare nuovi ribassi il prezzo del greggio, il prezzo del petrolio. Il WTI, quello quotato a New York, con consegna a settembre in calo dell'1,20%, $88,7 al barile. Il Brent, quello quotato a Londra, sempre con consegna a settembre in calo dell'1,17%, $104,9 al barile. A proposito di energia, ci sono le notizie che arrivano da questo incredibile blackout in India, che probabilmente è il maggiore della storia, non solo indiana ma mondiale. 600 milioni e gli abitanti del nord, nord-est ed est rimasti senza elettricità, riferisce il responsabile della rete elettrica nazionale. Attenzione, 600 milioni. Le reti elettriche sono crollate, ha detto, stiamo lavorando per ripristinarle al più presto. Proprio poco fa sono stati tratti in salvo 200 minatori che erano rimasti bloccati nelle miniere, non per qualche crollo ma semplicemente perché non funzionavano gli ascensori. 300.000 i passeggeri bloccati sui treni, quindi una vicenda che evidentemente mette anche a nudo una certa fragilità infrastrutturale di un paese che sembrava galoppare dal lato dell'economia. e che inizia a vedere anche qualche segnale non di decrescita naturalmente, ma di rallentamento. Al quale evidentemente questo blackout contribuirà perché, come sappiamo, si bloccano anche le attività produttive in questi casi. Abbiamo parlato dei mercati, parliamo di quello dei titoli di Stato. Lo spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi a 482 punti, quindi in risalita. C'è qualche nuovo segnale di tensione evidentemente, mentre il rendimento dei titoli a 10 anni è al 6,10%. Tutto questo mentre Monti e Hollande ripetono, sembra diventato il mantra delle dichiarazioni ufficiali europee: faremo di tutto per proteggere l'integrità dell'eurozona. Ma nel frattempo da Berlino arriva una risposta a chi ipotizza di dare una licenza bancaria al fondo di salvataggio europeo ESM. Cosa vuol dire dargli la licenza bancaria? Che di fatto può prendere denaro direttamente dalla BCE. Non ce n'è alcun bisogno, dice il Ministero delle Finanze tedesco. Così come le banche tedesche sono contrarie a che venga data una licenza bancaria all'ISM. Nel frattempo torna a parlare la Bundesbank. La politica monetaria della Banca Centrale Europea deve restare focalizzata sulla stabilità dei prezzi e i problemi di bilancio degli stati dovrebbero essere risolti attraverso le politiche di bilancio o il ricorso al fondo di salvataggio europeo. Questa volta a parlare sono fonti che parlano con la CNBC. Oh, visto che siamo in tema di banche tedesche, ci sono anche dei dati interessanti, sono quelli che riguardano Deutsche Bank, che vede dimezzarsi l'utile nel primo semestre 2012 a 661 milioni rispetto agli 1,2 miliardi di euro del secondo trimestre 2011. I ricavi sono scesi del 6% a 8,5 miliardi. I co-presidenti del Consiglio di Amministrazione del Comitato Esecutivo del Gruppo, Jain e Fitchen, dicono che i risultati sono stati influenzati dall'ambiente volatile. Che fosse volatile ce ne siamo accorti. La crisi del debito sovrano europeo continua a pesare sulla fiducia degli investitori e l'attività client attraverso la banca. Ha deciso Deutsche Bank, tra l'altro, di tagliare 1.900 posti di lavoro nell'ambito di un piano di riduzione dei costi da 3 miliardi di euro. 1.500 di questi posti, questi 1.900, sono nell'investment banking. Interessante notare che l'esposizione di Deutsche Bank ai titoli di Stato italiani è cresciuta di circa il 29% nel secondo trimestre, passando da 1,95 miliardi di euro a 2,5. Male anche l'andamento di UBS, banca svizzera, meno 58% l'utile nel secondo trimestre del 2012, legato alle perdite per lo sbarco in borsa di Facebook. Facebook che oggi perde il 4,8% a 22 dollari per azione. La banca ha stimato in 349 milioni di franchi, e sono 290 milioni di euro, le perdite appunto a seguito della cattiva gestione da parte del Nasdaq della quotazione in borsa di Facebook. Ci sono dati anche dalla Spagna, continua la fuga di capitali spinta anche dalla bancarotta di Bankia a fine maggio e dalla successiva nazionalizzazione del quarto gruppo finanziario iberico. A maggio l'uscita netta è stata di 41 miliardi di euro e complessivamente di 163 miliardi nei primi mesi dell'anno, secondo i dati diffusi dalla Banca di Spagna. Tra l'altro si mette in evidenza una tendenza abbastanza preoccupante che in parte conoscevamo già. Il denaro iniettato dalla BCE non arriva all'economia reale, viene depositato in paesi stranieri dalle economie più solide. Lo scandalo Euribor, i PM di Trani, il PM di Trani ha sequestrato i documenti, email tra Milano e Londra, sequestrati venerdì scorso nella sede lombarda della Barclays dalla Guardia di Finanza e dal PM di Trani, Michele Ruggero, per l'inchiesta sui tassi Euribor. Quindi dopo lo scandalo LIBOR che ha colpito prevalentemente le banche inglesi, ossia questo tasso che serve ad indicare a che rendimenti le banche si prestano il denaro l'un l'altra, per farla molto semplice, che influisce su 350 miliardi di transazioni finanziarie, 350 mila miliardi di transazioni finanziarie all'anno, lo scandalo rischia di estendersi all'Euribor. Magari ne tratteremo nei prossimi giorni. Dice intanto una ricerca di Mediobanca che i crediti deteriorati netti delle banche italiane hanno sfondato a marzo 2012 la soglia dei 100 miliardi di euro, più 7,9% sul trimestre precedente. Infine i dati sull'inflazione: a luglio frena al 3%, ferma su base mensile, passa al 3%, dal 3,3% di giugno su base annua, ed è stabile in Europa al 2,4% in luglio. Questo è il dato per quanto riguarda l'inflazione in luglio, appunto ferma al 2,4%. Questo è un dato importante, ne abbiamo parlato parecchio nei giorni scorsi, perché è uno di quei dati che la Banca Centrale Europea potrebbe utilizzare, sui quali si potrebbe basare per prendere le sue decisioni di politica monetaria. Perché? Perché il mandato della Banca Centrale Europea è appunto quello di tenere sotto controllo l'inflazione. L'obiettivo è di un'inflazione al 2%, e questo vale tanto al rialzo quanto al ribasso. Se la BCE intravedesse i segnali di deflazione, potrebbe intervenire con maggiore energia, avendo da questo lato, se non un benestare, almeno il fatto che i tedeschi chiudano un occhio, finalmente. Noi veniamo al primo tema di questa giornata, ossia la disoccupazione. A proposito dell'India, probabilmente vale a maggior ragione per la Cina, ci dite: continuate a vedere la crescita come qualcosa di economico e non di civiltà, sicurezza, democrazia e diritti. Che tristezza, questa è una trasmissione economica e di questo ci occupiamo, insomma. Poi e poi teniamo anche presente che sono cose con le quali fare i conti, insomma, ecco, quando sei di fronte a una crescita impetuosa, economicamente impetuosa come quella indiana o come quella cinese, non puoi non tenerne conto dal punto di vista economico, visto che i rapporti di forza si giocano anche su quello. La dimostrazione è quanto siamo tutti morbidi, tutti i paesi siano morbidi con la Cina dal lato dei diritti umani, e là probabilmente siamo messi molto peggio che in India, eh. 349-238-6666 come sempre per i vostri sms. Disoccupazione ancora a record a giugno nell'Europa, nell'Eurozona all'11,2%, in Italia al 10,8%, al massimo dal 2004. Il rialzo è di 0,3 punti percentuali in giugno su maggio e di 2,7 punti su base annua. Il numero dei disoccupati a giugno è di 2.800.000, anche qua record storico, almeno livello più alto dall'inizio delle serie mensili. E in giugno, boom di disoccupati, e così ci dicono le agenzie, più 761.000 in un anno. Saluto la professoressa Irene Tinagli, docente all'Università Carlos III di Madrid, editorialista della Stampa. Professoressa, buonasera. Salve, buonasera. Allora, abbiamo anche dati dei quali, non solo di quelli si occupa, insomma, ma un suo tradizionale argomento d'elezione, mettiamola così, è quello dei giovani. È un 34,3% la disoccupazione giovanile. In giugno ci sono 608.000 persone tra i 15 e i 24 anni che sono in cerca di lavoro. Qua naturalmente va fatto un chiarimento: in realtà l'età legale per iniziare a lavorare in Italia sono 16 anni. Ci informa però l'Istat che quelli tra i 15 e i 16, che è il calcolo per armonizzarlo come dire al resto d'Europa, sono numeri marginali naturalmente nell'ambito di questi calcoli. Allora, professoressa, mi sembra che non se ne esca, insomma, siamo in recessione e i risultati sono questi, poco da dire forse da questo lato. La recessione la si vede sia da questi dati che anche dalla produzione industriale che sta continuando a contrarsi e quindi non dà molte, non fa ben sperare, però insomma diciamo che noi il problema della disoccupazione giovanile, francamente, come ha detto lei, un mio tema di lezione, nel senso che sono anni che ne soffriamo di un altissimo livello di disoccupazione giovanile anche prima della crisi economica e di questo secondo tuffo che abbiamo avuto, diciamo, quest'anno negativo. Quindi dietro a questi dati si nasconde qualcosa di più profondo della crisi economica, che rispecchia delle nostre debolezze strutturali su cui noi non siamo mai riusciti a intervenire, ecco. Ecco, questo mi sembra un tema centrale, è un tema che abbiamo toccato tante altre volte qua. E, allora, il punto è questo: ci sono elementi che è difficile correggere dal lato della crescita, dal lato della stessa disoccupazione, non solo, che derivano da una congiuntura pessima, evidentemente. Il punto è che questa crisi può essere l'occasione per agire su quelli e questo governo, questa crisi e questo governo possono essere l'occasione per agire su quelli che sono i problemi strutturali di questo paese. Allora, dal lato del lavoro, complessivamente, lei ritiene che questa riforma, che alla fine è stata approvata dopo tanta sofferenza, dopo tante modifiche, tanto governative quanto parlamentari, possa dare un po' di respiro? E naturalmente qua parliamo del medio-lungo termine, perché, come si è spesso detto da questi microfoni, le riforme non hanno, soprattutto di questa portata, possono avere un impatto limitato nel breve periodo. Professoressa. Senz'altro richiedono sempre un po' di tempo prima che tutti gli effetti si esplichino. Questa riforma in particolare diciamo che si ispirava fin dagli inizi, poi dopo ha preso un po' di varie direzioni, però ha un po' ai principi della flexicurity, cioè cercare di introdurre un po' più di flessibilità in uscita, però introducendo, quindi un po' più, essere più aggressiva sulla libertà di movimento in uscita, che in Italia mancava, però compensandola con una parte più difensiva che rafforzasse un po' di garanzie sul lavoro precario, sulle fasi di entrata, introducendo sussidi di disoccupazione. Quindi bilanciare questi due elementi, flessibilità e, diciamo, aggressività con difensività, io sto semplificando per farmi capire. Il problema, secondo me, è che alla fine, dopo tutti i vari processi di negoziazione, la riforma, secondo me, è stata più buona, incisiva sugli aspetti difensivi che non su quelli liberali di flessibilità, eccetera, su cui ci sono stati dei progressi, non è che non ci siano stati, però sono abbastanza piccoli, per cui è anche difficile stimarne l'impatto in termini di creazione di nuovo lavoro, perché poi alla fine la parte flessibile serve a quello, poi la parte difensiva non serve a creare lavoro, serve ad arginare gli effetti negativi per chi lo perde. Quindi queste sono, certo, le due anime della riforma, e quindi in questo momento provare a valutarne gli effetti sulla parte, diciamo, di generazione di nuovo lavoro è un po' difficile, non credo che nel breve, forse anche nel medio, ma poi anche per questioni più generali, nessuna riforma del lavoro, anche quelle più aggressive, da sole possono bastare a inventare nuovo lavoro. Aiutano, sicuramente aiutano molto, perché creano delle condizioni positive per cui chi vuole fare nuove aziende, o chi vuole crescere, o chi vuole riorganizzarsi e ristrutturarsi, ha delle condizioni che aiutano aiutano a farlo, però certamente poi ci vogliono anche altri provvedimenti. Questo avrebbe dovuto essere il compito, per esempio, di provvedimenti sulla semplificazione, snellimento delle burocrazie, una riforma fiscale che purtroppo ancora non abbiamo avuto, che riducesse il carico fiscale sulle imprese, quindi tutta una serie di misure per lo sviluppo e la crescita, quindi non solo il contesto legislativo, insomma. Complessivamente mi sembra, e poi vorrei anche un giudizio da lei su come si è mosso da questo lato il governo. È una frase fatta, se vogliamo, che abbiamo detto spesso, però chi sta pagando davvero gli effetti di questa crisi sono esattamente i giovani. Il dato che abbiamo fornito poco fa lo dimostra, cioè esattamente un terzo, anzi più di un terzo dei giovani italiani è senza lavoro, contro una disoccupazione generale che è alta, è al 10,8%, come vi abbiamo detto, ma è, tenete presente, anche inferiore tra l'altro alla media dell'Eurozona, che in questo momento è all'11,2%. Ecco, da questo lato ha l'impressione che passi avanti se ne siano fatti? Non moltissimi, devo essere sincera. Questo dato basso sulla disoccupazione, diciamo, degli adulti, o perlomeno un più basso della media europea, è legato un po' anche a quello che si diceva prima, cioè una legislazione difensiva anche dei posti esistenti e anche delle politiche, diciamo, economiche e industriali, che sono sempre state tese nel nostro paese a proteggere quello che c'è piuttosto che a lavorare per creare delle nuove opportunità di lavoro, e questo ha chiaramente penalizzato molto le nuove generazioni, perché ha creato un po' una cristallizzazione per cui si cerca di fare tutto il possibile per tenere in vita i posti che ci sono, le aziende che ci sono, le industrie che ci sono, ma poi facendo così, ricorrendo anche a sussidi, cassa integrazione, incentivi che gravano anche sul debito pubblico, sulle casse dello Stato, e non lasciano poi risorse per fare tutte quelle misure che possono invece aiutare a creare nuove imprese, a fare sgravi per nuova imprenditoria. Questo è anche un tema di cui si parla poco. Il nuovo lavoro lo creano anche nuove imprese, nuove energie imprenditoriali che purtroppo in Italia negli ultimi anni si sono molto affievolite. Se lei ha visto proprio anche l'altro ieri, non solo in Italia, è un problema più generale anche dell'Europa, su cui credo che tutti i leader europei dovrebbero fare una riflessione. Questo spirito imprenditoriale, questa capacità di creare e generare nuovo lavoro, una nuova generazione di imprese, in Europa è molto debole rispetto agli Stati Uniti e figuriamoci ai paesi emergenti come la Cina o il Brasile. I nuovi imprenditori, quelli proprio ai primi passi di impresa, un paio d'anni fa in Italia rappresentavano solo il 2% di tutta la popolazione adulta, contro, diciamo, il 7-8% degli Stati Uniti, il 14% della Cina, il 17% del Brasile. Quindi secondo me noi dovremmo fare una riflessione anche su questo, sulla tipologia di politiche per lo sviluppo che noi facciamo, perché secondo me stiamo veramente andando nella direzione sbagliata e non stiamo rivolgendo l'attenzione a quello su cui bisognerebbe invece lavorare. La ringrazio, insomma, anche con questa nota che dà una sorta di segnale come quello spirito imprenditoriale che ha fatto grande questo paese in parte si sia perso, forse anche molto semplicemente per le difficoltà che ci sono in questo paese a fare impresa. Grazie a Irene Tinagli, docente dell'Università Carlo III in Madrid, editore di Stella Stampa, per essere stata con noi, e buonasera. Grazie a voi. Noi adesso cambiamo argomento e andiamo a parlare della visita del Presidente del Consiglio in Francia e poi in Finlandia. Allora, ci sono Italia e Francia che riaffermano la volontà di impegnarsi e di fare tutto il possibile perché le decisioni del Consiglio europeo siano applicate e la zona euro sia difesa, preservata e consolidata. Così, delle parole del Presidente del Consiglio che faranno discutere, probabilmente, e lo vedo già dai vostri SMS, dice siamo alla fine del tunnel. Stanno succedendo due cose, che la fine del tunnel sta cominciando a illuminarsi e che noi e il resto d'Europa ci stiamo avvicinando alla fine del tunnel.

Anche ieri l'incontro del segretario al tesoro americano Geithner con il ministro delle finanze tedesco Schäuble, e quindi l'apprezzamento per gli sforzi di Italia e Spagna è stato importante per creare quel clima di fiducia. Insomma, quando c'è l'incendio è chiaro che tutti gli elementi di divisione, anche geografica, tra mentalità completamente diverse emergano in tutta la loro forza, e questo si sta cercando di rendere più fluido. Grazie a Gerardo Pelosi, collega del Sole 24 Ore, inviato in Francia, adesso in Finlandia. Vedremo come evolverà questa visita di Monti, naturalmente il tutto ancora in attesa della giornata di giovedì. Noi chiudiamo questo capitolo con altre parole del Presidente del Consiglio dopo l'incontro con Hollande. Non possiamo permetterci neanche un minuto di disattenzione. Condivido parola per parola quello che ha detto il Presidente Hollande circa il graduale schiarirsi delle prospettive di stabilità dell'Eurozona, ma è talmente vitale per tutti e per ciascuno di noi la posta in palio, la stabilità, la forza dell'Eurozona, la sua capacità di contribuire alla crescita economica e sociale dell'Europa, che non ci possiamo permettere neanche un minuto di disattenzione. Così Monti, per gli amanti del genere, visto che ne parliamo spesso, il presidente della regione Sicilia Lombardo è appena arrivato nell'assemblea regionale siciliana per presentare le sue dimissioni, e però oggi, mi segnalano via Twitter, non si è fatto mancare una nuova nomina. Proprio oggi, nel giorno delle dimissioni, nuovo assessore regionale alle autonomie locali, Nicola Vernuccio. Andiamo avanti così. Noi adesso parliamo di un'iniziativa, come sapete un periodo abbastanza intenso dal lato dei manifesti per il paese, se così possiamo chiamarli, e questo è un bene perché insomma vuol dire che c'è un clima intorno al rilancio dell'Italia importante. Dal 2 al 5 agosto prossimi a Roma si svolge Prioritalia. È un evento organizzato da Manager Italia e Federmanager per dare risposta alle esigenze prioritarie del paese e a definire le premesse che consentono di tornare ad una politica di alto livello, quindi dedicato alla politica, ma da un soggetto economico, appunto. Mario Mantovani, vicepresidente di Manager Italia, buonasera. Buonasera. Allora, voglio capire innanzitutto il senso di questa iniziativa. Ma nasce da un'assenza, quella che i manager italiani hanno avuto per lunghi anni dalla scena della politica. Noi abbiamo pensato che occuparci bene delle nostre aziende fosse sufficiente, che costruire anche un sistema di welfare bilaterale, sussidiario, fosse parte dell'impegno sociale, e però che qui si esaurisse, che tutto sommato la politica potesse fare a meno di noi in qualche modo, con questa separazione tra chi si occupa della cosa pubblica e chi si occupa delle aziende private. Abbiamo dovuto riscontrare che non è così, non è sufficiente. Dobbiamo anche noi farci carico della responsabilità di cambiare il nostro paese dalle radici, dalla profondità del vivere civile. E quindi questa iniziativa nasce come innanzitutto una presa di responsabilità dei dirigenti, dei manager italiani, che intendono farsi carico di un pezzo di questo traghettamento verso il futuro. È piuttosto interessante, devo dire, come si diceva, che l'obiettivo, mi sembra di capire, è un obiettivo politico in senso lato, naturalmente, cioè non intendiamo politico legato ai partiti, politico nel senso più alto del termine, almeno nelle intenzioni, naturalmente. E infatti l'idea di fondo e i principi guida sono esattamente politici. Brevemente, quali sono, Mantovani? Sì, brevemente, non vogliamo certamente presentare liste o appoggiare liste o dettare l'agenda economica delle priorità a chi si presenterà alle elezioni, però pensiamo che un fenomeno, un momento come quello appunto delle elezioni politiche non possa essere visto come oggi, come addirittura una minaccia per il nostro paese. Dovrebbe essere un momento di rinnovamento in cui nuove forze si presentano alla ribalta con nuove idee, con nuovi approcci. E quindi vogliamo cercare di capire come sia possibile portare all'interno del mondo politico quelle risorse che pure nel nostro paese esistono, con quali meccanismi possano accedere alla rappresentanza politica soggetti che fino adesso ne sono rimasti in qualche modo distanti, esclusi, anche per loro demerito, ripeto, non credo che sia sempre una questione di casta che si chiude in se stessa. C'è questo fenomeno, ma c'è anche un distacco da parte, anche nel nostro mondo, della politica. Quindi noi vogliamo ragionare su come far sì che la politica ritorni ad essere un'attività benemerita, che si possa fare per un periodo della propria vita, dedicandosi in maniera disinteressata, ma voglio dire senza pauperismi, e poi si possa anche ritornare a fare il proprio mestiere. Questo, se volete, è un po' il leitmotiv dell'iniziativa. Io la ringrazio, ringrazio Mario Mantovani, vicepresidente di Manager Italia. Dal 2 al 5 agosto prossimi a Roma, appunto, Prioritalia, che è questo evento organizzato per parlare di politica, appunto, nel senso più alto del termine. Grazie e buonasera, è il momento dei mercati. Eleonora Micheli, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Innanzitutto questo andamento negativo, anche se si è chiuso lontano dai minimi. Sì, lontano dai minimi, oggi diciamo ha regnato la volatilità, le borse sono partite male, poi a metà mattina hanno preso a salire fino al primo pomeriggio, quindi hanno di nuovo imboccato la strada del ribasso, sono arrivate a perdere soprattutto Milano e Madrid, hanno registrato cali consistenti e poi sul finale hanno tentato il recupero. Questo perché? Perché girano mille voci e mille ipotesi di quello che farà domani la Federal Reserve e dopo domani la Banca Centrale Europea. Nel primo pomeriggio sarà diffusa la convinzione che probabilmente i due istituti centrali non faranno niente, sposeranno quindi uno statu quo. Più tardi invece si è tornati a ragionare su un'eventuale manovra monetaria di tipo espansivo. Allora, Fiat in calo del 4,44% e Fiat Industrial dell'1,05%. Fiat ha presentato i conti oggi, Fiat Industrial lo farà domani. Ne parleremo tra poco, sarà uno degli nostri argomenti di approfondimento. Vorrei su Mediaset, anche qua, periodo di conti, Eleonora. Sì, periodo di conti, appena chiuso la borsa, infatti la società ha comunicato l'andamento del primo semestre. Intanto durante delle contrattazioni stanno uscendo adesso i flash su Mediaset, meno 73%, l'utile netto del primo semestre a 43 milioni. D'altra parte, nel durante delle contrattazioni nessuno sapeva quali fossero i numeri della società televisiva, ma tutti ragionavano sul fatto che potessero essere numeri deludenti, visto che già da qualche settimana è emerso chiaramente che anche la raccolta pubblicitaria ha sofferto nel primo semestre e continuerà peraltro a soffrire anche nei mesi venturi, secondo le indicazioni date. Sì, leggo tra l'altro un flash proprio vostro, appunto, di Radio Core: poco probabile una crescita dei ricavi nel 2012, è un virgolettato, quindi parliamo dei dati comunicati da Mediaset. Lo stesso dicasi per Finmeccanica, meno 2,3%. Sì, esatto, meno 2,3%, ma abbiamo detto che Mediaset alla fine invece aveva chiuso in calo solo dello 0,3% e ha quindi arginato i danni. Anche in questo caso attesa per la semestrale, del resto siamo entrati nel vivo proprio dei conti delle aziende, che sono il vero polso poi per comprendere l'andamento della congiuntura. Sì, appunto, questo per quanto riguarda Finmeccanica, 44 milioni l'utile netto del secondo trimestre, 70 milioni nel primo semestre dell'anno, ricavi in calo del 6%. Sempre a proposito di conti, perché naturalmente questo è il periodo negativi, quelli di Mediolanum, meno 1,7%. meno 1,7%, Mediolanum ha registrato in verità dei conti in miglioramento, sono aumentate le masse amministrate del 5% a 49,1 miliardi, anche l'utile netto addirittura balzato in avanti del 125% a 217 milioni. Non solo, ma Ennio Doris proprio a Radio Core ha dichiarato che il 2012 dovrebbe essere un anno record per la società, visto che a suo parere gli italiani aumenteranno il risparmio proprio in vista della crisi e quindi evidentemente affideranno a società come Mediolanum i propri risparmi. Nonostante questo, i titoli però hanno perso terreno, meno 1,7%, ma venivano da più sedute di rialzi. E per quanto riguarda Telecom Italia invece? Telecom Italia in questo caso c'è l'attesa innanzitutto per i conti che saranno resi noti giovedì mattina prima dell'apertura della borsa, meno 1,3%, ha ridotto i danni, nella notte sono stati comunicati i conti di Team Brasile e adesso nel primo pomeriggio quelli di Telecom Argentina, le due controllate sudamericane della società. I conti sono risultati in crescita ma al di sotto delle attese degli analisti e quindi questo inizia un po' a preoccupare visto che erano diciamo il polmone dell'azienda che trascinava la crescita dell'intero gruppo. Buone speranze per Parmalat, se non erro i conti non sono ancora usciti, in realtà ha guadagnato l'1,72% oggi. Sì, evidentemente in questo caso il mercato scommette su conti positivi e infatti il titolo quasi per tutta la seduta si è distinto in rialzo. Infine Snam. Snam in questo caso meno 0,3%, questa mattina la società ha comunicato anche in questo caso i conti semestrali, nel primo pomeriggio c'è stata la conference call con gli analisti, l'azienda ha inoltre annunciato anche che distribuirà un acconto sul dividendo 2012 di 0,10 euro, l'utile netto del secondo trimestre è calato del 13,7%, diciamo i titoli hanno arginato le perdite, anzi poco fa tentavano anche di salire di qualche frazione di punto percentuale. Il quadro mi sembra complessivamente questo, senza particolari temi, mi sembra, Eleonora, no? Sì, al di là di quelli dei conti. Sì, titoli che si sono mossi soprattutto sull'andamento dei conti, poi bisognerà vedere il trend. Semmai a livello di trend vale la pena sottolineare che i principali istituti bancari, cioè Unicredit, Intesa San Paolo ed MPS, alla fine hanno registrato tutti dei cali abbastanza consistenti, attorno al 2%, superiore al 2%, e questo perché purtroppo, nonostante anche le indicazioni fornite quest'oggi dal Premier Mario Monti e dal presidente francese Hollande, lo spread ha ripreso a salire ed ha chiuso comunque, certo, su un livello molto elevato a 480 punti, cosa che ovviamente fa male al mercato in generale, ma soprattutto alle banche. Ricordiamo che le banche sono le più esposte nei confronti dei titoli di Stato, MPS ad esempio ha più di 25 miliardi di titoli di Stato. Grazie ad Eleonora Micheli di Radio Core Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E noi, come promesso, adesso ci occupiamo di Fiat. Di Fiat e di un mercato dell'auto a dir poco asfittico, se considerate che i dati dell'URAE, l'Associazione delle Case Automobilistiche Estere in Italia, forniti oggi, parlano di un mercato italiano che chiuderà il 2012 con 1.419.000 immatricolazioni. Il calo è del 18,9% su base annua e si torna a livelli del 1979. E poi ci sono appunto i conti di Fiat. Conti tenuti insieme evidentemente da Chrysler, che li ha diffusi ieri, e non dalla parte italiana, per così dire. Andrea Malan del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. È così o l'affermazione è troppo forte? No, l'affermazione è più che giustificata. Su 1 miliardo di euro circa di utile operativo di gruppo, Chrysler ne ha prodotto 866 milioni in euro, quindi l'85-90%, e a livello di ricavi, tra l'altro, oramai l'azienda americana pesa per oltre 13 miliardi di euro su 21, diciamo quasi due terzi dei ricavi. Perché l'America, i dati sono arrivati ieri sera, quindi è la prima volta li commentiamo qua a Focus Economia, perché l'America in realtà sta attirando da questo lato. L'America sta attirando, guardando solo al trimestre sono state vendute in America, compresi Messico e Canada, 550.000 veicoli contro 460 dell'anno prima, in Europa ne sono state vendute 301.000, in calo del 13%, da 350 circa, quindi questa forbice si allarga con un ovvio impatto sui conti, per cui il risultato operativo di Fiat in Europa nell'auto è in negativo per circa 138 milioni, è circa raddoppiato rispetto all'anno precedente. Teniamo presente che questi numeri, che equivalgono a un rosso di circa mezzo miliardo di euro su base annua, sono comunque inferiori ad alcuni dei concorrenti come la Ford o la Peugeot che li hanno annunciati la scorsa settimana, ma ovviamente restano molto preoccupanti e hanno una conseguenza importante. Marchionne e il gruppo premono l'acceleratore sugli investimenti di Chrysler, che sono saliti a 1,9 miliardi di euro nel semestre, e frenano quelli di Fiat con la giustificazione più volte ripetuta da Marchionne che non si investe in un mercato che va così male. Sì, quindi questo andamento del mercato naturalmente orienta, brevemente Andrea ti chiedo, anche quelle che sono le scelte strategiche dell'azienda, insomma, aggiungendo se vogliamo qualche preoccupazione in più sul fatto che il baricentro si possa spostare definitivamente negli Stati Uniti. Naturalmente, questo diciamo che non è mai stato proclamato con decisione, sappiamo che c'è in ballo anche una decisione sulla sede del futuro gruppo quando sarà stata fatta la fusione. Diciamo che dal punto di vista finanziario c'è anche un problema, che Fiat per ora, che ha una quota di poco superiore al 60% di Chrysler, non può utilizzare però la liquidità dell'azienda americana. Ora, se teniamo conto che Chrysler in questo trimestre ha ridotto i debiti quasi a zero, mentre il resto di Fiat li ha aumentati a 4 miliardi di euro, vediamo che punto 1 è fondamentale per il gruppo arrivare a una fusione abbastanza in fretta e punto 2, date le condizioni complessive economiche, è chiaro che cresce il rischio che poi la sede e il baricentro del gruppo siano negli Stati Uniti. Grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Io, prima di chiudere, giustamente ci fate notare, non avete dato i titoli migliori e peggiori, pardon, insomma, di solito li diamo sempre, abbiamo omesso oggi, ve li do subito. UbiBanca è stato il titolo migliore sul listino, un guadagno del 4,05%, la Popolare di Milano su del 2,92%, Ansaldo del 2,13%, Parmalat dell'1,72%, Settimacro Electronics dell'1,42% e Diasorin dell'1,4%. I titoli peggiori: Fiat, ma ve l'abbiamo detto, meno 4,4%, Atlantia giù del 2,5%, TOTS del 2,3%, Prismian altrettanto, così come Finmeccanica, tutti giù del 2,3%, del 2,10% scendono Intesa San Paolo, A2A, Unicredit e Luxottica ed Exor, ossia appunto il gruppo che produce occhiali e la controllante di Fiat, giù dell'1,9%. È tutto, un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia, Mauro Del Corno in redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.